Capitolo 7. La loro cultura si basa sulla proprietà, garantita dalla violenza organizzata. Come potrebbero concederci una porzione di terra significativa? Al contrario, sono posseduti da un insaziabile desiderio di conquista. Per come la vedono loro, la colonizzazione è un fatto di violenza e terrore, mai di accordo pacifico, e per questo ci costringerebbero ad adottare lo stesso atteggiamento. Danny riapre gli occhi sul volto di una donna. «Bentornata tra noi!» La capo infermiera Korczak le tocca la fronte con le dita, in un gesto materno, spiccio e gentile al tempo stesso. «Non avete febbre, è soltanto debolezza. Ve la sentite di tirarvi un po' su?» Danny si solleva e la donna le offre un altro cuscino per appoggiare la schiena. La ragazza avverte un odore che le apre lo stomaco. La sensazione peggiora quando l'infermiera scoperchia una ciotola, liberando un vapore appetitoso. Danny rimane a bocca aperta. La donna dispone la tazza su un vassoio da letto e lo colloca sulle gambe della ragazza. «Che cos'è?» domanda lei. «Brodo di gallina con una patata dentro». «Non mangio animali», ribatte Danny. «Dovete recuperare le forze», insiste Natalia. «Prendete almeno la patata». Danny pesca il tubero con le dita e ne addenta un'estremità. Mangia piano, con gusto, osservando i movimenti della donna che cammina per la stanza a piccoli passi, trascinando i piedi dentro un paio di pantofole. «Ti fanno male?» «È la gotta», risponde l'altra, mentre raggiunge il tavolo accanto alla finestra. «Certi giorni è davvero fastidiosa». Si mette ad armeggiare con una siringa e una schiera di provette. «Mi chiamo Natalia Bogdanovna», aggiunge. «Sono la moglie del dottor Bogdanov e la capo infermiera della clinica». Occhi castani, profondi, capelli dello stesso colore, striati di grigio e raccolti in una treccia. Sugli zigomi corrono rughe sottili e solchi più marcati ai lati della bocca. Danny la trova bella. Bella come un albero, o il grande fiume che ha visto a Leningrado, o quel pomeriggio di fine estate. Non una bellezza immediata, data dall'armonia delle forme, ma una più complessa, frutto dell'intreccio del tempo con la vita. La capo infermiera si accorge dell'attenzione di Danny e si mette in posa, come per un ritratto. «Eh sì, mia cara, ho molti più anni di voi, tanti che potrei essere vostra madre». La ragazza rimane interdetta. «Puoi leggere il pensiero?» «Il pensiero no, ma il vostro viso è un libro aperto. Mi chiedo dove siete cresciuta, visto che mi date del tu, come se lo fossi davvero vostra madre. Avete un curioso modo di fare, ma come preferite, vi darò anch'io del tu». Danny seguita a mangiare. Quando finisce, la capo infermiera toglie il vassoio e la fissa a braccia conserte. «Nella tasca del tuo cappotto c'erano i documenti di un certo Lev Alexievich Koldomazov. Mi pare evidente che non sei tu. Qual è il tuo nome?» Danny si guarda le mani, distese sulle lenzuola. Muove appena le dita sottili, come se dovesse tracciare la risposta sul tessuto. «Danny», risponde, ma dal volto dell'infermiera capisce che pretende una risposta più completa. «I documenti li ho presi per arrivare fin qui», aggiunge. «Sono di una persona che non ne ha più bisogno, una persona morta». «E i tuoi? Dove li hai lasciati?» «Nel posto dove sono cresciuta». Danny non trova le parole e l'altra attende paziente. «L'orfanotrofio», si sblocca la ragazza. «E dov'è questo orfanotrofio?» «In Georgia, vicino a Baku». Natalia Korczak scruta ancora quell'aria da bambina, la pelle candida, i capelli biondo platino. «Sei scappata?» «Volevano mandarmi a lavorare in un opificio», risponde Danny senza esitare, «ma io volevo trovare Leonid, così sono andata via. Mi hanno accolta in una casa di contadini, mi hanno aiutata. È lì che ho trovato i documenti, non volevo rubare, erano persone gentili». Ancora un'indecisione, come se fosse distratta da un pensiero fosco, ma subito riprende. «Anche se tenevano in casa un animale morto, una volpe credo, e non so perché». La donna stira le labbra, poco convinta. «Pensavi di cercare tuo padre con dei documenti rubati e senza un'idea di dove fosse?» Il tono è tra l'incredulo e l'accondiscendente, come un'adulta che riprende una ragazzina scapestrata, ma più per dovere che per convinzione. Danny muove ancora le dita sul lenzuolo, componendo serpentine e arabeschi immaginari. Non volevo restare là. Sapevo che Leonid era di San Pietroburgo, così sono andata a cercarlo. Ho trovato dove abitava, ma adesso ci vive altra gente. Sono loro che mi hanno procurato un passaggio, su un camion diretto a Mosca. La capoinfermiera sospira e sterilizza sulla fiamma l'ago di una siringa. «Tua madre?» domanda senza girarsi. «È morta, quando ero piccola, era molto malata». La donna si volta e le mostra il cotone. «Ti preleverò un po' di sangue e ti farò il test per la tubercolosi. Mio marito sostiene che potresti essere anemica e, dato che siamo in un istituto per le trasfusioni, tanto vale controllare». Danny lascia che la donna le massaggi il braccio e glielo buchi con due aghi diversi. Ora riposa. Fa per andarsene, ma la ragazza la trattiene. «Dovete aiutarmi». Il tono non è quello di chi implora, ma piuttosto di chi dà un consiglio o esige qualcosa, come se il favore non dovessero farlo a lei, ma a se stessi. «Sai», le dice l'infermiera, «ho conosciuto tanti georgiani e non mi pare che tu abbia il loro accento. Un'ora fa, mentre vaneggiavi nel sonno, parlavi una lingua strana, ma non georgiano». Sulla porta, prima di lasciare la stanza, si volta indietro. «Dimenticavo, Baku non è in Georgia».